Terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Un breve riassunto di quanto abbiamo letto la volta scorsa. Nonostante il parere contrario dei genitori, che vorrebbero per Nicolai un matrimonio ricco, questi dichiara il suo amore a Sonia. L'azione intanto si sposta a Mosca, dove sono convenuti Pierre Bezukhov, nauseato dalla convivenza con la moglie, il vecchio conte Balkonski con la figlia Maria, Boris Drubetskoy, che cerca anche egli una ricca moglie e alfine la trova in Julie Karagina, e infine il vecchio conte Rostov insieme con Natasha e Sonia. Questi prendono alloggio da Maria Dmitrievna Akhrosimova, donna dai modi spicci e bruschi ma schietta e generosa nel profondo, che subito si incarica di gestire i preparativi per le nozze di Natasha. Per prima cosa Maria Dmitrievna spedisce il conte Rostov con Natasha dal vecchio principe Balkonski, padre del fidanzato di Natasha, che li accoglie con molta freddezza. Da perfetta organizzatrice della permanenza moscovita dei Rostov, Maria Dmitrievna prende per loro anche dei biglietti per l'opera. Natasha non aveva voglia di andare, ma era impossibile rifiutare quella cortesia, destinata esclusivamente a lei. E quando, vestita, andò in sala per aspettare il padre e, avvicinatasi a un grande specchio, vide che era bella, molto bella, si sentì più triste che mai. Ma nella sua tristezza c'era un che di dolce e di tenero. Si sentiva in quel momento così illanguidita che amare e sapere di essere amata era poco per lei. Voleva abbracciare ora, subito, l'uomo amato e dire e ascoltare da lui le parole d'amore delle quali il suo cuore era pieno. Mentre stava in carrozza, seduta accanto al padre e guardava pensierosa le fiamme dei fanali riflettersi sui vetri coperti di gelo, si sentì ancora più innamorata e più triste e dimenticò con chi era e dove andava. La carrozza dei Rostov si avvicinò lentamente al teatro, facendo stridere le ruote sulla neve. Natasha e Sonia balzarono fuori in fretta, tenendosi i vestiti. Scese il conte, sostenuto dai servitori, e fra le signore e gli uomini che entravano e i venditori di programmi, tutti e tre penetrarono nel corridoio dei palchi di prim'ordine. Dietro alle porte chiuse già si udivano i suoni della musica. La maschera passò rispettosamente e in fretta davanti alle signore e aprì la porta del palco. Una signora che entrava nel palco vicino guardò Natasha con uno sguardo di invidia femminile. Il sipario non s'era ancora alzato e intanto suonavano il preludio. Natasha entrò, accomodandosi il vestito insieme con Sonia, e sedette, guardando le file illuminate dei palchi di faccia. La sensazione che da molto tempo ella non aveva provata di sapere le sue braccia nude e il suo collo guardati da centinaia di persone la prese ad un tratto, piacevole e spiacevole insieme, richiamando un intero sciame di ricordi, di desideri e di emozioni attinenti a quella sensazione. Nel palco vicino era entrata una signora alta, bella, con una enorme treccia di capelli e con le spalle bianche e piene molto scoperte e due file di grosse perle al collo. Ella mise lungo tempo a sedersi, facendo frusciare il suo pesante vestito di seta. Natasha involontariamente guardava quel collo, quelle spalle, quelle perle, quella pettinatura e ammirava la bellezza delle spalle e delle perle. Mentre Natasha la guardava per la seconda volta, la signora si voltò e, incontrando gli occhi del conte Ilya Andreevich, gli fece un cenno del capo e sorrise. Era la contessa Bezukhova, la moglie di Pierre. Intanto suonavano gli ultimi accordi del preludio e il direttore d'orchestra batté un colpo con la bacchetta. In platea i signori ritardatari raggiunsero i loro posti e il sipario si alzò. Natasha, a poco, cominciava ad entrare in uno stato di ebbrezza che da tempo non aveva provato. Non si ricordava più chi era né dove era, né quel che accadeva davanti a lei. Guardava e pensava, e i pensieri più strani, inaspettatamente, senza nesso, balenavano alla sua mente. In uno dei momenti in cui sulla scena tutti tacevano, aspettando il principio di un'aria, si sentì stridere la porta d'ingresso della platea, dalla parte dove era il palco dei Rostov, e risuonarono i passi di un ritardatario. La contessa Bezúkhova sorrise, volgendosi verso l'uomo che era entrato. Natascia guardò nella direzione degli occhi della contessa Bezúkhova e vide un aiutante di campo di una straordinaria bellezza che si avvicinava al loro palco con un'aria sicura di sé e insieme cortese. Era Anatol Kuragin, che molto tempo prima ella aveva veduto e notato a quel ballo di Pietroburgo. Egli portava ora l'uniforme di aiutante di campo con una sola spallina e le cordelline. Avanzava con una andatura marziale e lenta, che sarebbe parsa ridicola se egli non fosse stato così bello, e se sul suo viso perfetto non ci fosse stata un'espressione di bonario compiacimento e di allegria. Gettando un'occhiata a Natascia, si avvicinò alla sorella, posò la mano dal guanto ben calzato sul parapetto del suo palco, le fece un cenno col capo e, chinandosi, le domandò qualcosa accennando a Natascia. «Ma charmante!» disse, parlando certo di Natascia. Ella non tanto l'udì quanto lo capì dal movimento delle labbra. «Come si somigliano, fratello e sorella!» disse il conte. «E come son belli, tutte e due!» Prima che cominciasse il secondo atto, apparve in platea la figura di Pierre, che ancora i Rostov non avevano visto dopo il loro arrivo. Il suo viso era triste ed egli era ancora ingrassato dall'ultima volta che l'aveva veduto Natascia. Senza notare nessuno, egli andò verso le prime file. Anatol gli si avvicinò e gli disse qualche cosa, guardando e accennando verso il palco dei Rostov. Pierre, vedendo Natascia, si rianimò tutto e in fretta, passando tra le file delle poltrone, si diresse verso il loro palco. Arrivato lì, si appoggiò coi gomiti al parapetto e, sorridendo, parlò a lungo con Natascia. Mentre discorreva con Pierre, Natascia ascoltava nel palco della contessa Bezúkhova una voce maschile e, senza sapere perché, capì che era quella di Kuragin. Si voltò a guardare e i suoi occhi si incontrarono con quelli di lui. Egli, quasi sorridente, la guardava dritto negli occhi, con uno sguardo così ammirato e carezzevole che a lei pareva strano di stargli così vicino, di guardarlo, d'essere così sicura di piacergli e di non conoscerlo. Quando il secondo atto fu finito, la contessa Bezúkhova si alzò, si volse verso il palco dei Rostov, il suo seno era interamente nudo, e col ditino inguantato chiamò a sé il vecchio conte e, senza badare alle persone che erano entrate nel suo palco, cominciò a discorrere con lui, sorridendo amabilmente. «Ma presentatemi le vostre deliziose figliuole», disse. «Tutta la città parla di loro e io non le conosco». Natascia si alzò e fece una riverenza alla bellissima contessa. A Natascia erano così gradite le lodi di quella donna così bella e brillante che arrossì di piacere. «Io pure ora voglio farmi moscovita», disse Hélène. «E come non avete rimorso a seppellire in campagna delle perle simili?» La contessa Bezúkhova aveva giustamente la reputazione di una donna affascinante. Ella poteva dire ciò che non pensava, e specialmente mentire, in modo del tutto semplice e naturale. «Caro conte, voi mi permetterete di occuparmi delle vostre figlie, benché io non sia qui per molto tempo, e voi pure del resto. Mi sforzerò di farle divertire. Anche a Pietroburgo ho sentito molto parlare di voi e volevo conoscervi», disse a Natascia col suo bel sorriso uniforme. «Ho sentito parlare di voi dal mio paggio, Drubetskoy. Avete inteso che si sposa? E dall'amico di mio marito, Balkonski, il principe Andrei Balkonski», disse, con una particolare sottolineatura nella voce, facendo intendere così che conosceva i rapporti di lui con Natascia. Pregò poi il conte, per fare meglio conoscenza, che lasciasse andare una delle due signorine nel suo palco per il resto dello spettacolo, e Natascia passò di là. Nell'intervallo successivo si sentì nel palco di Hélène un odore di aria fredda. S'era aperta la porta e, inchinandosi e cercando di non urtare nessuno, entrò Anatol. «Permettetemi di presentarvi mio fratello», disse Hélène, portando con inquietudine gli occhi da Natascia ad Anatol. Natascia voltò la sua graziosa testina al di sopra della spalla nuda e sorrise al bellissimo giovane. Anatol, che era bello da vicino come da lontano, si sedette accanto a lei e disse che da un pezzo desiderava di avere questa fortuna. Kuragin era molto più intelligente e semplice con le donne che quando era in compagnia di uomini. Parlava arditamente e semplicemente, e Natasha ebbe un'impressione strana e piacevole, vedendo che non soltanto non c'era nulla di così terribile in quell'uomo del quale si raccontavano tante cose, ma che, al contrario, egli aveva il più ingenuo, allegro e bonario dei sorrisi. Natasha non dubitava che egli l'ammirasse, e ciò le faceva piacere, ma senza sapere perché la presenza di lui le sembrava troppo vicina e le dava fastidio. Quando non lo guardava, sentiva che egli fissava le sue spalle e involontariamente intercettava il suo sguardo perché egli la guardasse piuttosto negli occhi. Ma quando lo guardava negli occhi, sentiva con terrore che fra lui e lei non c'era quell'ostacolo della timidezza che sempre aveva sentito fra sé e gli altri uomini. Senza sapere come fosse, dopo 5 minuti si sentì stranamente vicina a quell'uomo. Quando si voltava, aveva paura che egli di dietro potesse prenderle il braccio nudo o baciarla sul collo. E di nuovo si alzò il sipario. Anatole uscì dal palco, tranquillo e allegro. Natasha tornò nel palco col padre, già interamente in balia di quel mondo nel quale si trovava. Tutto ciò che accadeva davanti a lei le sembrava perfettamente naturale. E invece tutti i suoi pensieri di prima sul suo fidanzato, sulla principessina Maria, sulla vita in campagna, non le vennero in mente neppure una volta, come se fossero cose passate da molto, molto, molto tempo. Quando uscirono dal teatro, Anatole si avvicinò a loro e chiamò la carrozza. Nel far salire Natasha, egli le strinse il braccio sopra il gomito. Natasha, rossa e sconvolta, gli gettò un'occhiata. E lui, con gli occhi splendenti e con un tenero sorriso, la guardava. Appena giunta a casa, Natasha poté ripensare con chiarezza a tutto ciò che le era accaduto e a un tratto, ricordandosi il principe Andrei, si sentì atterrita e in presenza di tutti, alla tavola del tè, dove tutti s'erano seduti dopo il teatro, mandò un'esclamazione ad alta voce e, avvampando di rossore, uscì dalla stanza di corsa. «Dio mio, sono perduta», disse fra sé. «Come sono potuta arrivare a questo?», pensò. Per un pezzo rimase seduta, nascondendo fra le mani il viso in fiamme, cercando di rendersi conto con precisione di ciò che le era accaduto e non riuscendo a capire che cosa c'era stato e che cosa sentiva. Tutto le pareva oscuro, confuso e terribile. «È finito per me l'amore del principe Andrei?» domandava a se stessa. E con un tranquillante sorriso si rispondeva «Perché sono così sciocca da domandarmi questo? Che cosa ho fatto? Nulla. Non ho fatto nulla. Non l'ho provocato in nessun modo. Nessuno lo saprà e io non lo rivedrò mai più», diceva fra sé. «Dunque è chiaro che non è accaduto nulla, che non c'è di che pentirsi, che il principe Andrei può amarmi anche così». «Ma come così?» «Ah, Dio, Dio mio, perché non è qui?» Natasha si quietava per un istante, ma poi un certo istinto le diceva di nuovo che tutto ciò era vero, sì, e nulla era accaduto, ma le diceva quel certo istinto che la prima purezza del suo amore per il principe Andrei era morta. E di nuovo, nella sua immaginazione, ripeteva tutta la sua conversazione con Kuragin e si rappresentava il viso, i gesti, il sorriso tenero di quell'uomo audace nel momento che egli le aveva stretto il braccio. Ma il giorno successivo Hélène va a trovare Natasha a casa di Maria Dmitrievna e senza scrupolo alcuno le confessa che suo fratello è innamorato di lei e la invita ad una serata nel corso della quale lo stesso Anatole, durante un valzer, le dichiara di amarla. Frattanto Maria Dmitrievna, l'ospite moscovita dei Rostov, cerca di indurre e di convincere il vecchio principe Balkonski a dare la sua benedizione al matrimonio del figlio con Natasha, ma questi continua a negarla. E così l'anziana signora consiglia ai Rostov di tornare in campagna e di aspettare. Consegna inoltre a Natasha una lettera, datale per lei da Maria Balkonskaya, in cui questa si rammarica per la freddezza dell'incontro e si dissocia comunque dall'atteggiamento del padre. Ma mentre Natasha sta scrivendo la risposta, le viene recapitata una lettera di Anatole, in cui egli le propone niente meno che di rapirla. Natasha confessa a Sonia il suo amore e questa cerca invano di farla ragionare, ricordandole che il principe Andrei le aveva lasciato piena libertà e osservando dunque che sarebbe più corretto da parte di Anatole chiedere ufficialmente la sua mano, che non organizzare una fuga. Ma Natasha è ormai completamente sedotta e scrive alla principessina Maria che non sposerà mai suo fratello. In quegli ultimi tempi Anatol si era trasferito da Dolokhov. Il piano del rapimento della Rostova era già stato da parecchi giorni elaborato e preparato da Dolokhov. Natasha aveva promesso di andare alle 10 di sera incontro a Kuragin sulla scala di servizio. Kuragin doveva farla salire su un tiro a tre già preparato e condurla a 60 miglia da Mosca, nel villaggio di Kamenka, dove sarebbe stato pronto un prete spretato che doveva sposarli. A Kamenka sarebbero stati pronti altri cavalli che dovevano condurli sulla strada di Varsavia e là, con una carrozza di posta, avrebbero passato la frontiera. Ma tutti questi maneggi non sfuggono a Maria Dmitrievna, che, trovata Sonia in lacrime, la costringe a parlare, viene a sapere tutto e riesce a sventare il rapimento. Naturalmente la Dmitrievna si sente responsabile anche perché il padre di Natasha è assente in questi giorni, essendosi recato fuori Mosca per affari. Noi adesso riprendiamo la lettura dal suo ritorno in casa di Maria Dmitrievna, dove la povera Natasha, dopo la scena incresciosa del fallito rapimento, è sola nella sua stanza. Il giorno dopo, per colazione, arrivò, come aveva promesso, il conte Ilya Andreevich dalla sua villa presso Mosca. Era molto allegro. L'affare col compratore si stava concludendo e niente ormai lo tratteneva più a Mosca, lontano dalla contessa di cui sentiva la nostalgia. Maria Dmitrievna gli andò incontro e gli annunziò che Natasha era stata molto sofferente il giorno innanzi, che s'era chiamato il dottore, ma che adesso stava meglio. Natasha quella mattina non uscì dalla sua camera. Le labbra strette e screpolate, gli occhi asciutti e fissi, ella sedeva presso la finestra e guardava inquieta quelli che passavano per la strada, voltandosi poi in fretta se qualcuno entrava nella stanza. Evidentemente aspettava notizie di lui, aspettava che venisse lui stesso o che le scrivesse. Quando il conte entrò da lei, ella si volse inquieta al rumore dei suoi passi maschili e il suo viso riprese un'espressione fredda e anzi cattiva. Ella non si alzò neppure per andargli incontro. «Ma che hai, angelo mio? Sei malata?» domandò il conte. Natasha tacque per un po'. «Sì, malata», rispose. Quando Pierre tornò a Mosca, gli consegnarono una lettera di Maria Dmitrievna, che lo pregava di andare da lei per un affare molto serio riguardante Andrei Balkonski e la sua fidanzata. Pierre sfuggiva a Natasha. Gli pareva di nutrire per lei un sentimento più forte di quello che deve sentire un uomo ammogliato per la fidanzata del suo amico. E invece c'era un destino che lo conduceva continuamente verso di lei. Nell'anticamera della Akhrosimova, un domestico, togliendo la pelliccia a Pierre, gli disse che Maria Dmitrievna lo pregava di passare nella sua camera da letto. Aprendo la porta del salone, Pierre vide Natasha seduta accanto alla finestra, con un viso asciutto, pallido e cattivo. Ella gli gettò un'occhiata, aggrottò le sopracciglia e con un'espressione di fredda dignità uscì dalla stanza. «Che cosa è accaduto?» domandò Pierre, entrando in camera di Maria Dmitrievna. «Una bella cosa», rispose Maria Dmitrievna. «Sono al mondo da 58 anni e non ho mai veduto una vergogna simile». E fattasi dare da Pierre la parola d'onore che avrebbe taciuto su tutto ciò che avesse appreso, Maria Dmitrievna gli raccontò che Natasha aveva rifiutato il suo fidanzato a insaputa dei suoi genitori, che la cagione di questo rifiuto era stato Anatol Kuragin, col quale l'aveva fatta incontrare la moglie di Pierre, e col quale Natasha voleva fuggire nell'assenza di suo padre per sposarsi segretamente con lui. Pierre, alzando le spalle e spalancando la bocca, ascoltava ciò che gli diceva Maria Dmitrievna e non credeva ai suoi orecchi. La fidanzata del principe Andrei, amata così appassionatamente, quella Natasha Rostova, prima così cara, poteva lasciare Balkonsky per quell'imbecille di Anatol e innamorarsene al punto da consentire a fuggire con lui. Pierre non lo poteva capire, non se lo poteva immaginare. Pensò a sua moglie. «Sono tutte uguali», disse fra sé, pensando che non soltanto a lui era toccata la triste sorte di essere legato ad una donna indegna. Ma intanto sentiva, fino alle lacrime, compassione del principe Andrei, compassione del suo orgoglio. Non sapeva che l'anima di Natasha era piena di disperazione, di vergogna, di umiliazione, e che non aveva colpa se il suo viso esprimeva involontariamente una tranquilla e severa dignità. Maria Dmitrievna aveva paura che il conte o Balkonsky, che poteva arrivare da un momento all'altro, apprendessero il fatto che ella intendeva nascondere loro e sfidassero a duello Kuragin, e perciò pregava Pierre di ordinare in suo nome al cognato di lasciare Mosca e di non osare mostrarsi ai suoi occhi. Pierre le promise di soddisfare il suo desiderio, intuendo soltanto ora il pericolo che minacciava il vecchio conte e Nikolai e il principe Andrei. Avendogli così, con brevità e precisione, espresso ciò che voleva da lui, ella lo fece entrare in salotto. «Vada, il conte non sa nulla. Tu fa finta di non sapere nulla», gli disse. Pierre incontrò il vecchio conte. Era turbato e sconvolto. Quella mattina Natasha gli aveva detto di aver rifiutato Balkonsky. «È un guaio, mon cher», disse a Pierre. «Avete saputo? Ha rifiutato il fidanzato, senza chiedere consiglio a nessuno. Mettiamo pure che io non mi sono mai rallegrato molto di questo matrimonio. Lui sarà una brava persona, ma a sposarsi contro la volontà del padre non sarebbero stati felici e Natasha non resterà senza marito. Ma pure era una cosa che era durata tanto. E ora è malata e Dio sa che cos'ha. È un guaio, conte, un guaio». Sonia entrò nel salotto col viso sconvolto. «Natasha non sta punto bene. È nella sua camera e desidererebbe di vedervi. Maria Dmitrievna è con lei e anche lei vi prega di venire. Sì, sì, voi siete molto amico di Balkonsky. Di certo vuole darvi qualche incarico per lui», disse il conte. «Ah, Dio mio, Dio mio, Dio mio, tutto andava così bene». E afferrandosi le rade ciocche di capelli grigi, il conte uscì dalla stanza. Maria Dmitrievna aveva annunziato a Natasha che Anatol era già ammogliato. Natasha non le voleva credere e pretendeva la conferma del fatto da Pierre stesso. Sonia lo disse a Pierre mentre lo conduceva attraverso il corridoio in camera di Natasha. Natasha, pallida, severa, era seduta accanto a Maria Dmitrievna e Pierre, fin dalla porta, incontrò il suo sguardo, lucente di febbre, che lo interrogava. Ella non sorrise, non gli fece cenno col capo, non faceva altro che guardarlo ostinatamente. E i suoi sguardi gli rivolgevano un'unica domanda. Era amico o nemico, come tutti gli altri riguardo ad Anatol? Per se stesso, Pierre evidentemente non esisteva per lei. «Lui sa tutto», disse Maria Dmitrievna, mostrando Pierre e rivolgendosi a Natasha. «Ti dirà se ti ho raccontato il vero». Natasha, come una belva ferita e inseguita che guarda i cani e i cacciatori che si avvicinano, guardava ora l'uno, ora l'altro. «Natalia Ilinichna», cominciò Pierre abbassando gli occhi e provando un senso di pietà per lei e di ribrezzo per l'operazione che doveva fare. «Sia vero o no, tutto ciò per voi deve essere indifferente, giacché... Dunque, non è vero che è ammogliato?» «Sì, è vero». «È ammogliato? E da molto tempo?» domandò. «Parola d'onore?» E Pierre le diede la sua parola d'onore. «È ancora qui?» domandò lei in fretta. «Sì. L'ho veduto dianzi». Si capiva che ella non aveva forza di parlare e con la mano fece segno che la lasciassero sola. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi musicata da Paolo Terni a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.